266. Pollo in salsa d'uovo. Spezzettate un pollastro giovane e mettetelo nella casseruola con 50 grammi di burro. Conditelo con sale e pepe. Quando avrà soffritto alquanto, spargitegli sopra un pizzico di farina per fargli prendere colore e poi tiratelo a cottura col brodo. Levatelo asciutto in un vassoio, tenendolo in caldo, e nell'intinto che resta versate un rosso d'uovo frullato avanti con l'agro di mezzo limone. Per formare la salsa, rimestatela alquanto sopra il fuoco, versatela sul pollo e servitelo.